Zolt. Fulminati in azienda. Allora, signora parruccone, qual è il problema stavolta? Perché ogni volta che entrate voi del legale nel mio ufficio mi portate problemi. Non è vero, noi dell'ufficio legale i problemi non li creiamo, ma li evitiamo, al contrario, ecco, prevenendo possibili cause di azioni legali contro la nostra magnifica azienda. Sì, peccato che se fosse per voi in questa azienda non faremmo niente, eh? C'è sempre qualche legge che impedisce di fare le cose. Dai, sentiamo. Noi siamo dipartimento strategico, a dire il vero. Sì, ecco, che dice sempre di no. Sentiamo l'oggetto del giorno, dai. Guardate, il punto è semplice, è che la legge, all'articolo 457, comma 4, della riforma del codice zootiano di procedura civile, impone alle aziende che hanno adottato un codice etico, impone di lasciare che i dipendenti possano denunciare situazioni non etiche in azienda anche in forma anonima. Sì, che tradotto sarebbe che non è... Poi che te lo traduco io? Sì, grazie, ecco. Allora, abbiamo fatto il codice etico, sì. E mo ci tocca applicarlo, nel senso che purtroppo i collaboratori possono denunciare i comportamenti non etici dei manager, hai capito? Ho capito che è così, però ci impallinano a noi manager. Purtroppo, direttore, non c'è da discutere, l'applicazione della legge è obbligatoria e la legge è uguale per tutti. Ho capito, però dipende come avamo sta cosa, perché basta che comunichiamo a tutti che si possono fare segnalazioni solo gravi e solo a venerdì dai 16:30 ai 17 e vedrai che non ci arriva niente. Beh, già che ci siamo centri, facciamo la domenica mattina dalle 8 alle 9. È giusto, fama la domenica, fè. Marco, è gravissimo, gravissimo. Guarda, ascolta, Schedula, gravissimo. Voi delle risorse umane ogni volta che entrate, cosa c'è? Cos'è successo? Sempre disgrazie. No, dai. No, a me dispiace, ma è che solo nei primi 3 giorni sono già arrivate 1380 mail di segnalazioni di comportamenti non etici dei nostri manager. Vabbè, ma basta non leggerle, che problema c'è? Loro hanno segnalato e noi siamo a posto che la legge. Mica le dovremmo leggere, le archiviamo. Bravo, bravo Centri, bravo, mi piace questo atteggiamento. Anche perché noi appena diamo l'occasione al subalterno di lamentarsi, lui si lamenta. Saranno tutte lamentele. Comunque, dai, leggimene una, prendimene una a casa. Dai, vediamo. Comincio dalla prima. Comincia dalla prima, dai. Ecco, tutti sanno che il direttore generale Marco Sulpezzo ha segnalato una sua fiamma a Katia Urlo per condurre una serie di eventi e convention in azienda. Intanto, cosa c'entra questa roba qui con l'etica? No, c'entra se è vero quello che dicono. Io pensavo che Katia Urlo fosse una risorsa di alto profilo che tu vuoi valorizzare. A Schedula, per valorizzarla, a valorizza. Non ti preoccupare. È una catastrofe. In un mese ormai siamo arrivati a 1 milione di segnalazioni anonime da parte dei dipendenti per i comportamenti non etici. Sì, ho capito, Schedula, però non esageriamo. Tra l'altro non saranno mica tutte vere queste segnalazioni. Marco, però è un problema, perché ormai in azienda è una faida. Tutti sono spiati, ricattabili. Mi è rispuntata pure a Brimula che sta a ricattare tutti. La gente se odia, non si può più vedere. Sì, ma il problema vero è che ci sono troppi comportamenti non etici in questa azienda. Non sono d'accordo, come sempre non sono d'accordo. Non c'entrano i comportamenti. Il problema vero è il nostro codice etico. È troppo bigotto, medievale, stringente. Non si può fare niente. Ma se avevamo copiato agli altri? Ho capito, ma va adattato ai nostri valori. Centri, faccio un esempio per dire. La norma del codice etico che dice che non si possono fare raccomandazioni, va bene. Bene, però potremmo aggiungere, salvo rari casi, di persone di estremo valore. Giusto, e per esempio i regali dei fornitori non si possono accettare, giusto, a meno che non siano dei regali meritati e anche del buon gusto. Bravo, bravo, vedi che ci siamo, vedi che sei dalla mia parte. Allora facciamo un team per riscrivere il codice etico. E già che ci siamo, magari introduciamo anche una norma sul bilancio. Che va bene che il bilancio sia veritiero, ma qualche piccolissimo errore ci può scappare, no? Del resto, come dicevano i latini, errares humano es. Zot è scritto e interpretato da Andrea Beretta, Nicola Giunta, Andrea Notarnicola e Patrizia Sorrenti, con la partecipazione di Chiara Romersa, Emanuele Margiotta e Pina Luciani. Se vuoi saperne di più, www.zot.tv 3Z2O 1T.